Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati ancora nel mondo della scuola con Mirko Cavallini studio e di darci la parte tecnica in studio con noi come ospite settimana scorsa, questa ma anche per altre due settimane, la professoressa Maria Luisa Furlan, bentrovata. Grazie. Docente di inglese ma si occupa di varie cose insomma all'interno della scuola. Anche dell'UCIM, l'Unione Cattolica Insegnanti Medi, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e quindi anche non solo del io insegno alle superiori, ma può essere anche per le medie o... Certamente, le medie appunto sono tutte, scuola media inferiore e superiore. Quella è una definizione che è rimasta rispetto a scuola primaria o altre cose, va bene, così non sbaglio. Con te oggi parliamo di tecnologie, in particolare della LIM, la lavagna interattiva multimediale, ma più in generale delle nuove tecnologie nell'insegnamento. Io poco fa, mentre giocherellavo con una penna, mi sono sporcato con l'inchiostro, cosa che con le tecnologie non dovrebbe succedere. Insomma. No, succedono altri piccoli incidenti, tipo che non si è connessi, che si cancella quello che si è fatto, ma sicuramente l'inchiostro non macchia. No, esatto. Quell'inchiostro non c'è, però ci sono altri problemi, ma anche soprattutto molte opportunità. La tecnologia sta entrando sempre di più appunto all'interno delle aule scolastiche per volontà del Ministero, per volontà delle singole scuole, anche se poi non bisogna mitizzarla, credo. No, certamente. È uno strumento, come oggi non andiamo più, non so, in bicicletta, a piedi, andiamo in auto oppure con altri mezzi di trasporto, in aereo, e così utilizziamo gli strumenti che abbiamo. Il Ministero ha avuto alcuni anni fa una campagna, l'ha promossa per avere una LIM in ogni scuola, però era ben consapevole che se poi i docenti non la utilizzano la LIM resta lì, e quindi l'importante è anche capire a cosa può servire e soprattutto anche avere delle aspettative realistiche, non pensare che la nuova tecnologia, in questo caso la LIM, ma anche gli altri strumenti, possano risolvere tutti i problemi. Certo, perché poi se uno non la sa usare, appunto, la tecnologia serve fin lì. Sì, oppure se la utilizza per scopi che non sono adeguati. Se io ho un'auto e la utilizzo per fare 200 metri e basta, forse è meglio che ci vada a piedi, faccio prima. La LIM, se devo utilizzarla per alcune funzioni per cui è molto più comodo prendere un gesso e scrivere alla lavagna, un pennarello e scrivere a una lavagna bianca, ecco che posso utilizzare uno strumento più tradizionale e che comunque continua ad esserci nella scuola. Nelle sue funzionalità, appunto, questa lavagna interattiva multimediale come si presenta? Cioè, chi non è in classe adesso come me, che cosa vede? Quando si entra in classe si vede generalmente uno schermo bianco che è appoggiato alla parete, e allo schermo è collegato, davanti allo schermo generalmente fissato al soffitto c'è un videoproiettore e c'è un computer da qualche parte, che può essere un computer fisso, un portatile, potrebbe essere anche un tablet, ma normalmente è un fisso o un portatile, generalmente posto accanto alla cattedra o su un banco, collegato con il videoproiettore, per cui invece di proiettare si proiettano le immagini che compaiono sullo schermo del computer. Questa è un po' la differenza tra questo e tra la LIM e un semplice schermo, tra proiettare le immagini tramite LIM piuttosto che su una parete dell'aula, è che la LIM è interattiva, cioè toccando, è come avere davanti un tablet touchscreen oppure un telefono dove si può toccare lo schermo e si possono avviare delle funzioni, per cui si possono toccare le varie parti della lavagna e queste, tramite un software apposito, vengono percepite. Quindi non si agisce sul computer, ma direttamente sul... Si può agire sul computer, si può agire su questo schermo, e le due cose possono interagire, per cui se io prendo un qualsiasi oggetto, anche un dito, e scrivo su questo schermo, in realtà non scrivo con l'inchiostro, ma premo leggermente, esercito una leggera pressione, quello che io scrivo non è solo visibile in quel momento, ma può essere salvato, si scrive come se si scrivesse su un file, può essere salvato e quindi può essere anche memorizzato, registrato, spedito e così via. L'interattività da parte degli studenti, cioè sono solo lì che guardano? Ecco, no? Infatti dicevo, parlavo prima di un uso più o meno adeguato degli strumenti, perché naturalmente avere una LIM in classe può voler dire anche semplicemente utilizzarla per proiettare delle lezioni, delle immagini, un PowerPoint che io ho preparato prima, però ha senso avere uno strumento interattivo proprio per il fatto che gli studenti possono avvicinarsi e scriverci sopra proprio con come se fosse una penna, un pennarello, e poi anche possono le scritte che si mettono sulla LIM oppure gli oggetti che si proiettano lì possono diventare degli oggetti che si possono anche fisicamente spostare, un po' come in un tablet o i giochini per bambini che possono avere, non so, le storie animate, premi il bottone e si sente il suono oppure sposta gli oggetti. Per cui questo è molto utile soprattutto nella scuola primaria, ma anche negli altri tipi di scuola, perché si possono costruire con gli studenti delle spiegazioni, ricavare delle regole, fare degli esercizi con loro, e quindi proprio per questo penso soprattutto alla geometria e alla matematica, in cui magari lo svolgimento di un problema o trovare una soluzione può essere ricostruita, appunto. Infatti, e può anche essere registrato non solo il risultato, ma il software della LIM permette anche di registrare i vari passaggi, per cui può esserci il piccolo clip con cui io registro i vari passaggi della lezione. Bene, allora questo è un primo approccio con questa nuova tecnologia, nuova relativamente poi, e tra poco ne parliamo ancora. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ciascuno lo tiene per sé, una musica dentro che suona, un incontro che perso non è. C'è una vita che il cuore nasconde, pronunciare il mio nome non puoi, ma lo scoglio non ferma le onde, la corrente dispone di noi. Hai un uomo, una casa, un futuro, ma questo è il tuo sogno e nessuno lo sa. Uno sguardo che arriva e che parte, un amore che viene e che va, e stanotte le ombre si muovono piano e accendono il meglio che vuoi. È una notte che prende la mano al tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. Se la vita domani riprende, ciascuno riprende la sua, la ragione col buio si arrende, trascinata dall'alta marea. Prendi ciò che il destino ti deve, non pensare al futuro che avrai. Dimmi quando sarà, dimmi dove, perché un giorno mi ritroverai. Tu dimentica il nome che avevi, dimentica il mondo, rimani su me, perché ciò che davvero volevi hai voluto, è per questo che c'è. E stanotte le dita si muovono piano e accendono il meglio che vuoi. È la notte che prende la mano al tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. Domani torni al tuo equilibrio perfetto, hai già qualcuno che è migliore di me. Dentro ai fiori in questo letto lascia fuori la realtà. Qui c'è un cuore segreto che batte, è il tuo cuore segreto che batte, il mio cuore lo sa. Ciò che davvero volevi, la l'hai voluto, è per questo che c'è. Questa notte le dita si muovono piano e accendono il meglio che vuoi. È la notte che prende la mano al tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. È il tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme questa puntata dal mondo della scuola dedicata alla tecnologia, in particolare alla lavagna interattiva multimediale, con la professoressa Maria Luisa Furlan. Abbiamo fatto poco fa un'introduzione a questa tecnologia, dicevamo nuova ma relativamente nuova. Le LIME esistono già da alcuni anni e soprattutto è da alcuni anni che il Ministero ha avviato una campagna per avere una LIM in ogni scuola. Adesso in ogni scuola ce n'è almeno una, però poi le scuole che hanno presentato dei progetti specifici ne hanno anche più di una, oppure altre scuole hanno deciso di acquistarle con quei pochi fondi che hanno a disposizione, però hanno pensato che potesse essere uno strumento veramente importante, specialmente in classi magari in cui ci sono alunni che hanno dei bisogni educativi speciali o delle disabilità. Quelli di cui parlavamo la settimana scorsa, no? Sì. Quindi in questo senso può essere importante. Sì, perché se per esempio c'è un ragazzino che ha alcuni tipi di difficoltà, che ha bisogno di toccare per fare le cose o ha bisogno di rappresentarsi in certo modo gli oggetti nello spazio, ecco che la possibilità di avere uno strumento con uno schermo che gli permette di manipolare, di toccare, di spostare gli oggetti, consente a lui ma anche al resto della classe poi di fissare meglio le conoscenze e quindi anche di mantenerlo, di coinvolgerlo attivamente nella lezione, di più di quanto si può fare con una lavagna tradizionale, perché poi in qualche modo il risultato anche di quello che fa può essere mostrato agli altri o può essere portato a casa. Esatto, può essere questo materiale che magari nel corso della lezione viene anche creato, può essere condiviso e rivisto. Infatti uno dei vantaggi, delle opportunità che la LIM offre alla didattica è quella di poter appunto registrare il materiale, come dicevo, e poi i ragazzi possono portarselo a casa, esportarlo in file PDF oppure in piccoli filmati eccetera, quindi con una chiavetta se lo portano a casa e possono rivedersi la lezione, rieseguire gli esercizi, riascoltare o ripercorrere alcune tappe. Questo può essere importante per chi ha bisogno di tornare sopra magari sulle cose fatte, a un ritmo di apprendimento diverso. Ma poi ci sono anche ragazzi che hanno stili di apprendimento diverso, più visivo, più uditivo. Allora la LIM consente di preparare, è chiaro che io posso preparare un PowerPoint per presentare delle informazioni ai ragazzi e poi posso proiettarlo e nel PowerPoint posso inserire dei filmati, però la LIM consente non solo di inserirli ma anche eventualmente poi di spostarli seduta stante e quindi poi di metterli a disposizione. Ecco, ai miei tempi c'erano ancora le cassette, si registrava, quindi avevi solo l'audio eventualmente della lezione e l'approccio. Io non sono uno che ha mai preso tantissimi appunti, però avevo compagni di classe che scrivevano quasi parola per parola, ma lì dipende appunto dall'approccio individuale. Appunto il docente che si pone, che fa lezione, perché magari non tutti fanno lezione, chiaramente poi c'è materia che si adatta di più e materia che si adatta di meno, rispetto a una tradizionale lezione frontale in cui il professore parla o al massimo spiega la lavagna se è una formula oppure qualcos'altro. Che cosa cambia dal vostro punto di vista? Può non cambiare nulla, nel senso che io posso utilizzare la LIM come una lavagna normale di cui io come docente più o meno mi approprio, scrivo quello che devo scrivere fisicamente, oppure posso avere il vantaggio di scriverlo dalla tastiera del computer, per cui è maggiormente leggibile ai ragazzi magari che hanno problemi di dislessia, però a parte questo non cambia nulla, sono io che agisco con la LIM. Invece ci possono essere degli approcci molto più interattivi in cui vengono chiamati gli alunni alla lavagna, si chiede loro di scrivere, di costruire, addirittura di preparare, visto che il software che gira sulla lavagna è un software che può essere anche montato su qualsiasi computer, e i produttori delle lavagne che danno anche il software danno un numero di licenze molto alto gratuite alle scuole. Proprio per questo i ragazzi possono preparare un canovaccio di spiegazione, di lezione a casa, e poi presentarlo ai compagni, naturalmente a seconda dell'età, può essere anche dei disegni o delle altre cose molto semplici, però anche questo può aiutare a renderla più attiva, oltre al fatto appunto che i ragazzi partecipano. Questo però anche rovescio della medaglia, perché ci può essere la gara ad andare tutti quanti alla LIM, perché è una cosa nuova, bella da toccare, e quindi da sperimentare, quindi con gli studenti più giovani, sto pensando alla scuola media o addirittura alla primaria, bisogna che il docente abbia in mente questo, altrimenti va a finire che per dare a molti la possibilità di andare alla LIM a fare esercizio, oppure per tenerli così attivi durante la lezione, si diminuisce troppo il tempo l'efficacia del tempo della spiegazione, e c'è la gara dei ragazzini ad andare alla LIM. Esatto, poi diventa una distrazione invece che un'utilità. La LIM fisicamente è collocata in una, cioè non è spostabile, chiaramente, allora, viste le dimensioni, o poi ci sono anche quelle mobili? Ci sono quelle mobili, ci sono anche quelle pieghevoli, naturalmente dipende dalle dimensioni della classe, del gruppo classe, di come e delle esigenze che ci sono. Nella mia scuola ce n'è una che è tenuta ad un piano e che gira nelle varie classi di quel piano, e quindi è montata su un supporto che ha delle ruote, come una specie di grande pannello, e il proiettore è collegato allo schermo, e quindi viene eventualmente abbassato se si tratta di passare attraverso la porta, e poi alzato un po'. Naturalmente non è proprio come averla fissa, e soprattutto l'idea è quella di non utilizzarla solo per alcuni compiti o alcuni momenti, ma quanto più possibile. Non posso decidere di averla solo un giorno alla settimana, o meglio, si può fare in mancanza di meglio, insomma. Certo, quanto costa? Può costare? Tra i 1000 e 1500 euro circa, più o meno, un po' di più se sono più grandi, adesso dipende anche dalla grandezza, dalle ditte, e poi c'è tutto il discorso anche del computer collegato alle LIM, quindi... Certo, c'è anche quel costo, evidentemente. Ultima pausa e poi ancora insieme per parlare di questi aspetti tecnologici dentro la scuola. Dal mondo della scuola. Surprising. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola dedicata alla tecnologia con Maria Luisa Furlan. Stiamo parlando in particolare della LIM, la lavagna interattiva multimediale, novità appunto degli ultimi anni della tecnologia, diffusa ormai almeno in un esemplare in tutte le scuole. Rispetto agli altri strumenti, prima già all'inizio dicevi sì, non è semplicemente un proiettore, perché appunto ci si può lavorare e interagire, oppure rispetto al vecchio gesso bianco colorato e la lavagna di ardesia. Certo, dicevo anche il fatto di interagire vuol dire anche che sulla lavagna di ardesia, quando scrivo qualcosa, posso al massimo cancellarlo, posso utilizzare dei gesti colorati, quello è cancellato. Qui invece io posso trasportare l'oggetto, la scritta sullo schermo e quindi spostarla, perciò posso evidenziare le relazioni tra parole, tra testi, tra oggetti diversi. Quindi questo anche aiuta proprio a visualizzare un processo di apprendimento, dicevo prima, anche per dedurre delle regole. Naturalmente questo chiede che il docente prepari la lezione lasciando spazio anche alla possibilità di interagire con gli studenti su questo, e quindi non prepari un preconfezionato fino all'ultima virgola. E questo è diverso magari dal preparare un PowerPoint o qualcosa del genere, perché la lezione si costruisce in parte anche con gli studenti. Allora, se voglio sfruttare le opportunità che mi offre la LIM, devo pensare al fatto che posso inserire del materiale multimediale e selezionare, cercare il materiale, anche se YouTube e tanti altri siti hanno delle cose bellissime anche dal punto di vista didattico, ci sono dei siti meravigliosi. Sto pensando ai siti, non so, della NASA per le scienze, tutto l'aspetto dell'astronomia e così via, però poi devo perderci del tempo a trovare il materiale, selezionarlo, vedere se è in italiano. Non l'abbiamo detto, la lavagna è connessa a internet? Il computer? Che gestisce, certo, generalmente si è connesso a internet, si può anche fare a meno, però è naturalmente questo, per cui io posso anche mettere semplicemente il link, però poi devo essere sicura che il filmato ci sia. Perché a volte purtroppo succede che tipo vai su YouTube, vai al link e è stato tolto, esatto. E tu sei lì con la tua classe che pensavi oppure di fare una cosa. In questo senso la preparazione va fatta comunque, ma va adeguata al mezzo, e quindi anche la corsa ad avere tante LIM in una scuola comporta anche tanto lavoro per i docenti. Cioè, se io devo preparare le lezioni di tutte le classi con la LIM, devo reimpostare la mia didattica, e quindi questo vuol dire che naturalmente ci vuole tanto tempo per fare questo. Forse è meglio saggiamente, piuttosto che avere tante LIM spente, averne meno e cominciare a costruirci dei materiali, oppure utilizzare, a scoprire quelli che ci sono, vedere se ci vanno bene, adattarli e così via, in modo da poterle accendere, perché una LIM spenta è come non averla, e toglie spazio magari alle lavagne tradizionali o ad altri strumenti. Non costa tantissimo, abbiamo detto più o meno 1.500 euro, ma con i bilanci delle scuole certamente sarebbero soldi buttati via. Difetti, rischi che avete in questi anni visto? Sì, dicevo, queste sono alcune delle difficoltà. Il fatto che gli alunni possono essere distratti dalla LIM piuttosto che oppure hanno il desiderio di partecipare, quindi alzano la mano e vogliono venire a scrivere, a fare, anche quando non hanno la più pallida idea di cosa dovrebbero dovrebbero scrivere, perché naturalmente pur di essere lì al centro dell'attenzione. E c'è anche l'aspetto, dicevo, quindi che la LIM richiede, cioè vale la pena averla se si utilizza la multimedialità o comunque la possibilità, l'interattività. Se io devo fare una lezione in cui semplicemente devo mostrare delle immagini, dei filmati, dei suoni, se non voglio portarmi dietro videoproiettori, lettori CD, eccetera, che magari possono essere ingombranti, o non voglio andare a fare la lezione. Magari non funzionano quando devono funzionare. Sì, oppure c'è il fatto del filo che non è abbastanza lungo, per cui non riesco a portarli sulla cattedra, devo spostare la cattedra vicino alla presa di corrente, queste cose un po' così che fanno ridere, però succedono. Ecco, invece può essere comodo avere invece della LIM uno schermo. Adesso gli schermi tipo televisore non costano moltissimo, costano meno rispetto a una LIM. Il computer comunque serve per l'uno e per l'altro. Collego un computer allo schermo, può essere un computer anche non particolarmente potente, che mi permette proiettare dei PowerPoint, di far interagire soprattutto con gli allievi più grandi, far interagire gli allievi direttamente dal computer, tanto comunque non c'è questa necessità di manipolare gli oggetti sullo schermo, così come con la LIM, con i più grandi in generale almeno, e quindi questo può consentire un'attività didattica simile a quella che si può avere con una LIM, naturalmente a livello, in modo più ridotto, ma anche più economico, perché con 300-400 euro lo si schermo riesce ad affrontare la recupera. Spesa e a renderla efficace. Dal punto di vista degli studenti, penso che 4-5 anni fa, quando la LIM ha iniziato il suo percorso, la tecnologia è molto diversa, nel senso che anche la diffusione tra i giovani era molto diversa appena 5 anni fa. Adesso la loro familiarità con la tecnologia facilita l'uso della LIM. Sicuramente, dal punto di vista della LIM, tra l'altro è come scrivere su un computer quando la si ha sullo schermo, ci sono le stesse icone, gli stessi bottoni, per cui uno schiaccia qui, schiaccia lì, c'è la gomma cancellino, eccetera. Gli studenti entrano dentro senza grossi problemi. Gli studenti hanno anche altri strumenti adesso, che possono essere smartphone, tablet, computer, netbook, che possono essere utilizzati a seconda delle esigenze. Quindi questo forse rende anche meno indispensabile uno schermo interattivo grande, almeno per gli studenti più grandi. Ma queste sono tecnologie di cui possiamo parlare un'altra volta. Certo, allora la settimana prossima parleremo specificamente di e-learning, che è l'apprendimento a distanza. Piattaforme per l'apprendimento a distanza, bene, sì. Grazie allora a Maria Luisa Furlan, alla settimana prossima. Grazie a voi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.